sport, sarei Usain Bolt. Sparo soldi come fossero proiettili da un colt. Sono danni giganti all'arrivo dei saldi. Ci senti correre sui tacchi tipo mandria d'elefante. Caccia di stagione, lo shopping è religione. Io e la mia banda, femmine alfa. Beve dalle compere, senti la mandria. Un colpo al tuo mercato dalla standa alla Nasdaq. Se lo shopping fosse arte, sai che poesie. Consumiamo più carte che calorie. Dimmi saldi e dico danni, profezie. Ho più dei colti che anni, scarpe DM. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Tengo grandi stile ma nel portafoglio nada. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Nulla da ridire ma alla fine vesto Zara perché... La sveglia di mattina suona forte, suona hindi. La mattina l'oro in bocca assapora hindi. Il tempo è denaro, è l'ora di fare hindi. Quindi più denaro, fai piovere quei. Shopping? Ho un debole al cuore per un tacco da killer. Non è un tallone ma un tacco da killer. La borsa senza fondo, sì. Signora Poppins, sento l'eco quando vedo il conto in banca e mi chiedo: non c'è nessuno. Lunedì io taglio fuori haters tipo doppie punte. Martedì ceretta, mercoledì le unghie. Giovedì perfetta, venerdì lo show. Una salma stilosissima quando me ne andrò. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Tengo grandi stile ma nel portafoglio nada. Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Nulla da ridire ma alla fine vesto Zara perché... La sveglia di mattina suona forte, suona din-din. La mattina l'oro in bocca assapora hindi. Il tempo è